Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto per una ennesima puntata di Fuori di Noi, contenitore radiofonico settimanale ogni sabato alle 14, ogni domenica alle 12.30 su Blu Radio Veneto, che parla ovviamente di circoli, oratori, realtà giovanili. Noi cerchiamo di raccontare dalla diocesi di Treviso, di Padova, di Venezia e di altre diocesi cosa fanno di bello questi oratori che fanno tutti parte di una stessa famiglia, che è quella di Noi Associazione. Da qualche settimana, così come l'anno scorso abbiamo fatto nella programmazione consueta di Fuori di Noi, abbiamo anche instaurato una preziosissima collaborazione con l'Azione Cattolica, in particolare il settore, diciamo, dei bambini, l'ACR, che arricchiscono appunto ogni nostra puntata di Fuori di Noi. Ahimè, oggi ai microfoni sono soltanto io, perché appunto Anna Zampieri, la nostra compagna di viaggio, è ammalata e reduce però anche di una bellissima esperienza appunto avuta con la sua parrocchia di Spinea. Quindi ci racconteremo la prossima settimana, lei vi racconterà cosa ha fatto di bello, cosa ha visitato. Ma visto che ci sono anche tanti bei e importanti appuntamenti che l'Azione Cattolica promuove nella diocesi di Treviso, non vogliamo appunto farvi mancare e ricordarveli, e quindi abbiamo chiamato uno dei responsabili diocesani dell'Azione Cattolica. Vediamo se è in linea, ci concede qualche minuto. Yafti, ci sei? Ciao carissimo Cristian. Yafti, carissimo, bentornato appunto sul contenitore Fuori di Noi. Tu sei un ospite appunto che abbiamo sentito tante volte, ci racconti appunto cosa fa di bello l'Azione Cattolica, in particolare appunto l'ACR. Dicevo appunto che anche quest'anno continua questa preziosa collaborazione. Sì. Abbiamo avuto nelle settimane scorse, abbiamo ospitato negli studi appunto di Blu Radio Veneto, così come negli studi, negli ambienti del Noi, negli uffici del Noi e dell'Azione Cattolica, i gruppi di Spercenigo e Silea. Ne avremo tanti altri in base anche appunto ai collegamenti, diciamo alla programmazione che voi stessi come Azione Cattolica state facendo nelle varie parrocchie della diocesi di Treviso. Yafti, questa sinergia è importante perché appunto l'Azione Cattolica arricchisce l'oratorio e l'oratorio è l'ambiente adatto per le attività e, diciamo, tutto il cammino formativo appunto spirituale che l'Azione Cattolica e l'ACR in particolar modo sta promuovendo in tutte le parrocchie, perché quest'anno, Yafti, si punta in alto, vero? Si punta in alto, sì, infatti quello di seguire Gesù nelle alte vette della vita, puntare alla cima, alle alte quote dell'esistenza, è questa la priorità che ci siamo dati come ACR, e anche quello di, come Azione Cattolica in generale, di rispondere alla chiamata che il Signore rivolge a ciascuno nella medesima dignità, in qualsiasi stato di vita che una persona si trova. Nelle settimane passate sia Anna che Claudia, che accompagnavano insieme con i loro educatori questi gruppi, abbiamo praticamente anche lanciato un piccolo messaggio, un invito che ovviamente è di medio-lungo termine, cioè una volta appunto che loro hanno partecipato alla trasmissione Fuori di Noi, che hanno registrato il loro contributo, che hanno visto appunto dove vengono realizzati questi programmi, dove vengono realizzati questi cammini appunto e questi progetti che poi si indirizzano a tutte le parrocchie, magari un giorno voi stessi, cari bambini, che oggi date appunto un piccolo contributo attraverso i microfoni, potete darlo prendendovi la responsabilità di diventare voi stessi animatori, educatori e protagonisti all'interno delle varie associazioni, che sia il Noi o che sia l'Azione Cattolica. Sarebbe questo un grandissimo risultato, cioè sentirsi responsabile di una famiglia un po' più grande, che non è quella della parrocchia ma quello della diocesi. Speriamo magari che questa occasione, questa visita, questa, diciamo, anche iniziativa un po' giocosa, possa instillare in qualcuno di questi ragazzi la voglia un domani di prendersi carico di una responsabilità più grande. Di sentirsi una chiesa più grande. Esattamente. Yafti, però io ti ho chiamato perché voglio che tu racconti, diciamo, o meglio presenti un appuntamento che vedrà, speriamo che veda protagonista tutta la diocesi di Treviso, ma noi estendiamo l'invito anche agli amici di Padova, agli amici di Venezia, se hanno la possibilità, perché c'è un grande appuntamento la prossima settimana. Racconta tu. Sì, abbiamo un grande ospite, un superman, perché è rinato dopo un periodo di forte prova nella propria vita, di sofferenza appunto per un forte incidente che ha avuto a settembre, abbiamo l'occasione di ospitare Monsignor Sigalini nella nostra diocesi, assistente unitario, centrale, generale dell'Azione Cattolica Nazionale. È un personaggio che anche voi del noi avete già ospitato qualche anno fa, e sappiamo bene che è un carismatico, una persona che ci aiuterà davvero a entrare nella dimensione vocazionale della vita del laico di Azione Cattolica, nella vita, nel mondo, nella quotidianità a cui ogni laico è chiamato a vivere, nelle situazioni, negli ambienti di vita che si frequenta. E credo che la presenza di Sigalini sia davvero preziosa per la nostra associazione diocesana, ma come dicevi tu, anche per il territorio della nostra regione ecclesiastica, perché insomma non è sempre facile avere la possibilità di avere ospite un presidente nazionale piuttosto che l'assistente generale. Quindi sono occasioni davvero preziose e rare da non perdere. E quindi Afti, diciamo anche questo, che è una delle poche persone, io appunto l'ho già sentito, ma lo possiamo anche trovare tranquillamente anche in tante trasmissioni televisive, così come in tante interviste, è una persona che sa raggiungere con, diciamo, la sua esperienza di vita, la sua spiritualità, la sua fede, tutte le generazioni, può dire qualcosa di importante e posso dire anche un po' riesce a dare una scossa sia ai giovani che agli adulti, perché le sue, diciamo, i suoi incontri lasciano sempre qualcosa. Quindi siete stati molto bravi, diciamo, a trovare l'occasione per poterlo invitare qui a Treviso, ed è un invito, penso, che voi avete fatto attraverso i vostri canali di informazione verso gli educatori, gli animatori, gli aderenti di Azione Cattolica, ma ripeto, io credo che sia un invito rivolto a tutto, anche alle famiglie che se hanno la possibilità venite, perché sentirete veramente anche un respiro nuovo, un modo nuovo di affrontare anche l'educazione, l'animazione, l'incontro, la relazione fondamentalmente, che è... Ma lui si fermerà proprio sulla vocazione del laico, proprio, quindi non direttamente anche con uno stretto contatto educativo, ma proprio la vocazione di testimone del Signore in ogni ambiente di vita, nella nostra natura di essere laici, dedicati alla nostra chiesa diocesana, alle nostre chiese parrocchiali, alle nostre comunità cristiane. E l'appuntamento è per mercoledì 29, quindi mercoledì prossimo, alle 20:30 presso l'auditorium del Pio X di Treviso, ovviamente. Benissimo, Iafti, ti ringraziamo di questi momenti, di questi minuti che ci hai dedicato. Auguriamo a te, ovviamente, buon lavoro. Manca l'Anna oggi. Si sente purtroppo, vedi la mia voce purtroppo. Cioè, ci deve essere sempre la voce femminile. Poi, vabbè, insomma, no, non adesso, non piangiamo sul latte purtroppo già versato. Salutiamo tanto Anna e speriamo appunto di riaverla in formissima la prossima settimana. Cristian, grazie mille e un saluto agli ascoltatori. Anche a te, ci risentiamo, anzi ci rivedremo mercoledì a questa importante serata con Monsignor Sigalini. Grazie ancora, Iafti. Ciao Iafti. Ecco, ciao. E ricordiamo appunto che Monsignor Sigalini era ospite, come l'ha già detto appunto il nostro responsabile diocesano Iafti, qualche anno fa al convegno che il Noi di Treviso organizza annualmente, che si chiama un po' Oratorio perché non siano solo parole. E anche quest'anno rieditiamo, diciamo, questo appuntamento. Abbiamo un ospite altrettanto importante, forse anche molto conosciuto, venerdì 16 marzo alle ore 20:30 presso l'auditorium Pio X di Treviso ci sarà Don Fortunato Di Noto, fondatore appunto dell'associazione Meter. È stato consulente tecnico in varie procure italiane per delicate indagini sul fronte della criminalità pedopornografica e dello sfruttamento sessuale dei bambini. A livello istituzionale ha rivestito e riveste tutt'oggi anche importanti incarichi presso l'Osservatorio Nazionale contro la Pedofilia e l'Osservatorio Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Con questo incontro, diciamo, annuale, Noi Treviso continua a parlare di educazione e ovviamente entreremo anche sui mezzi di comunicazione più virtuali, social network, i pericoli ma anche, diciamo, i vantaggi, pregi e difetti attraverso un esperto di questi sistemi nuovi di comunicazione e di relazione, soprattutto a livello giovanile. Quindi Don Fortunato Di Noto a Treviso venerdì 16 marzo presso l'auditorium Pio X. E adesso, dopo la prima, diciamo, contributo, prima intervista, prime notizie, andiamo con il primo brano che ci arriva direttamente da Sanremo. Dolce Nera, ci vediamo a casa. La chiamano realtà questo caos legale di tu opportunità, questa specie di libertà, grande cattedra. Noi ci vediamo a casa. Ciao a tutti, arrivederci la prossima settimana. Ah no, ecco qui, la regia di Eddie Daici, che ringraziamo, ci dice che non è proprio appunto già finito, anzi, a noi stiamo aspettando appunto un secondo ospite di questo appuntamento settimanale sul mondo degli oratori, noi associazione, sul mondo appunto dei circoli padronati che animano e danno vita, diciamo, alle comunità parrocchiali. Noi Treviso è impegnato da qualche settimana fino alla metà di marzo in una rassegna teatrale, non una rassegna teatrale amatoriale, oratorio a teatro presso il Teatro Helios di Scorzè, che vi invito appunto ad andare a vedere. Ogni sabato alle ore 21 c'è una compagnia nata all'interno dell'oratorio, nata all'interno del circolo, che si esibisce per la prima volta forse, o per appunto mostrare, diciamo, il proprio talento di fronte a un grande pubblico. E qui abbiamo un ospite che è uno dei responsabili della compagnia Fonteatro di Onè di Fonte. Vediamo se è in linea. Gian Matteo, ci sei? Sì, ciao, sono Gian Matteo. Ciao Gian Matteo. Allora, innanzitutto grazie di essere intervenuto a Fuori di Noi. Continuiamo, diciamo, a scoprire anche come nascono queste compagnie, perché sono nate in oratorio, cosa di bello riescono a fare, diciamo, attraverso il teatro. Innanzitutto, tu chi sei all'interno del, diciamo, di questa compagnia? Il responsabile, scrivi le sceneggiature, che ruolo hai all'interno di Fonteatro? Allora, io sono, diciamo, per così dire, il cofondatore di questa compagnia, che appunto ha avuto nascita all'interno della realtà parrocchiale di Onè di Fonte, e da sempre ho un po' avuto la responsabilità di essere il regista, colui che curava in funzione dei testi un po' tutta la coreografia e la sceneggiatura delle commedie che abbiamo rappresentato. Bene, allora, il Fonteatro da chi è composto materialmente? Cioè adulti, giovani, ragazzi, qualche magari anche over, oppure raccontaci un pochettino, quante persone siete intanto? Allora guarda, noi siamo un gruppo che è nato nel 2001 per iniziativa di un gruppo di amici che, frequentando appunto la parrocchia, hanno avuto così l'intenzione di mettere a frutto la loro passione per il teatro. E è una compagnia composta da soggetti di varie età. Nel nostro percorso abbiamo avuto anche ragazzi giovani e bambini per esigenze così teatrali, fino a un'età superiore che si aggira intorno ai 45-50 anni. Poi ci sono tutte le persone di contorno che danno una mano per le scenografie, i costumi, e allora lì l'età non ha limite. Bene, voi vi rappresentate, come ho già detto prima, la prossima settimana, questa il sabato appunto, al Teatro Helios di Scorzè. Ma voi vi siete già esibiti altrove? Cioè è una prima commedia che presentate appunto a Scorzè, oppure questa commedia, che ricordo ancora il nome, Sior Felice che cucagna, l'avete già rappresentata? Altrove. Questa è la quarta delle nostre commedie che abbiamo preparato in questi 10 anni, è già la quinta volta con Scorzè che la facciamo, è una prima per la provincia di Venezia, diciamo così, per cui siamo anche un po' ansiosi ed emozionati di partecipare a questa rassegna nel comune di Scorzè. Io ci sono già stato a qualche altro appuntamento di quest'anno e ti dico solo in anticipo che alle 8, di solito appunto dicevo inizia alle 21 lo spettacolo, alle 8 sono già tutti fuori che vogliono il biglietto ha una modica, diciamo, un contributo minimo, insomma, mentre per i ragazzi, i bambini è anche gratuito. Comunque il calore che troverete appunto a Scorzè, te lo garantisco, è altissimo, perché sono tutti molto affezionati al teatro, vengono da ogni parte della diocesi, quindi il calore ce l'avete e voi fate quello che sapete meglio fare, cioè recitare con la gioia e la passione che immagino vi abbia spinto a formare questa grande compagnia. Ti chiedo una cosa, allora tu sei regista, di solito i registi sono amati e anche odiati, perché immagino appunto che tutti lo facciano per passione, il regista guarda quello che magari non va bene, cerca di aggiustare, ma sai, quando c'è in tanti, tante volte è difficile anche trovare la modalità per correggere, per criticare in maniera costruttiva. E ti chiedo una cosa, se tu dovessi descrivere, diciamo, la tua esperienza teatrale con qualche aggettivo, come la descriveresti? Difficile, dura, bella, straordinaria? Cosa useresti? Quale aggettivo useresti per descrivere la tua esperienza con Fonteatro? Allora, prima di tutto ci vuole passione, poi l'esperienza, i tre aggettivi sono divertimento, bellezza e soprattutto una crescita personale e di gruppo. per cui diciamo l'esperienza che può nascere da piccole esperienze, da piccole feste, può farti scoprire la bellezza dello stare insieme e di crescere insieme anche, appunto, come si diceva prima, con persone che hanno diverse età tra di loro. Gian Matteo, tu inizi la tua esperienza, diciamo, con Non è di Fonte all'interno del Circolo Noi, ma la tua storia e la tua passione con il teatro inizia dalle elementari, dalle medie, quando hai partecipato magari alle prime rappresentazioni scolastiche, o avevi già fatto qualcosa anche tra virgolette da adulto? Allora nasce con le esperienze parrocchiali di campi scuola, poiché io ho fatto anche un po' l'esperienza dell'animatore all'interno del Circolo Noi, e poi così questa passione che è cresciuta mi ha così richiesto e permesso di frequentare anche dei corsi specifici di teatro, ecco. Quindi ti sei perfezionato? Scusa? Ti sei perfezionato, insomma? Sì, è una parola grande, ma diciamo così. Una cosa, il teatro oggi l'abbiamo visto nella nostra realtà di Treviso, ma anche a Padova, ma anche a Venezia, è in grande ascesa. Quindi c'è un considerevole aumento di compagnie di teatro amatoriale. Perché secondo te? Perché rispetto a tutti gli altri divertimenti super tecnologici o diciamo queste tante offerte che ci arrivano da locali, da esperienze varie, il teatro, nonostante il passare del tempo, è ancora una grande forza ed è ancora molto apprezzato sia dai giovani che dagli adulti? Ma sai, il teatro amatoriale è un'importante esperienza di aggregazione e crescita sociale, per cui chi ha la fortuna e diciamo così il coraggio di affrontare e di scoprire questa esperienza, scopre nello stesso tempo la bellezza dello stare insieme, di superare le difficoltà, di superare magari certe paure che ha dentro di sé o certi schemi preordinati. Per cui proprio si scopre la bellezza dello stare insieme, di crescere insieme. Quali sono le difficoltà che hai incontrato in questo tipo di esperienza? E diciamo, chiamiamoli così, i successi che tu puoi mettere, diciamo, nel tuo bilancio teatrale? Ma guarda, le difficoltà sono quasi sempre di carattere personale e a volte anche di relazione. Personale perché, specie d'inverno, è difficile trovare il tempo e superare la fatica di partire per andare a fare le prove. Però poi il successo, diciamo così, e le soddisfazioni ti fanno superare tutto. Poi c'è una difficoltà che comincia ad essere piuttosto pesante, quella legata alla necessità, al dover superare purtroppo molti aspetti burocratici legati alla sicurezza, ai diritti, alle assicurazioni, che sono così ostacolano un pochettino, vincolanti anche per potersi esibire in piccole realtà parrocchiali. Sì, purtroppo è vero, anche qui a livello territoriale stiamo facendo un gran lavoro da questo punto di vista, perché non perché lo vogliamo noi, ma perché appunto ce lo chiede appunto anche la nuova normativa. È un successo, diciamo, che ti ricordi sempre con piacere, o che dici: guarda, tra tante cose questo supera, diciamo, tutte le fatiche, tutte le incomprensioni, tutte le difficoltà che ho incontrato. Il successo più grande sono sicuramente gli applausi che ricevi dalla gente, il calore, ma soprattutto ogni volta trovi sempre delle persone disponibili a titolo gratuito, tanto quanto noi, a darti una mano, a darti un pezzo di legno piuttosto che il camion per i traslochi, una stoffa o qualcosa del genere. Quindi il teatro invita, diciamo, alla solidarietà, ma dico anche una parola molto più semplice, solidarietà è tanto alta, una collaborazione, una relazione anche semplice, fraterna, eccetera. Ultima domanda, Gian Matteo, e poi ti lascio. E voi vi esibite sabato con Sior Felice Che Cucagna. In 30 secondi dimmi di cosa parla questa commedia. Dammi allora qualche anteprima. È una commedia divertentissima che ti fa ridere dall'inizio alla fine, dove il definitivo e ultimo colpo di scena fa venire il mal di pancia dalle risate. È una vicenda, guarda, che si svolge all'interno di un modesto alloggio su una palazzina in un campo veneziano tra il 2001 e il 2002, per cui è anche abbastanza recente, in un momento in cui appunto c'è il cambio dalla lira all'euro. E niente, l'alloggio è di proprietà di un tale Felice Tavazza, un veneziano commerciante di stoffe e abiti che è in pensione da qualche anno. Allora tutta la vicenda ruota attorno a un fatto che sarebbe accaduto a lui nel 1982. Tale fatto crea, così produce una fortunata combinazione che farà cambiare completamente la sua vita e quella della sua famiglia. Però a suon di colpi di scena si scoprirà che a volte un'improvvisa fortuna, seguita chiaramente da un'altrettanto improvvisa disgrazia, può lasciare emergere il vero valore delle persone. Il tutto è caratterizzato, come ti dicevo, da un esilarante comico susseguirsi di eventi e colpi di scena e da una divertentissima famiglia che sa adeguare a proprio favore le fortune e le disgrazie che intervengono. Benissimo, e allora sabato noi ci vediamo, appunto sabato 25 febbraio ore 21, compagnia teatrale Fonteatro, Sior Felice Checucagna di Morucchio, e noi abbiamo parlato e ti ringraziamo tanto e ti auguriamo buon lavoro, perché sicuramente tanti applausi li riceverai sabato tu e la tua compagnia. Abbiamo parlato con Vendrasco Giammatteo, responsabile della compagnia Fonteatro di Onè di Fonte. Grazie mille, ciao. Grazie a voi e ciao e grazie. E viva il teatro, e viva il teatro. Ciao. Ciao, ciao, ciao. E ovviamente secondo blocco con una grande canzone scritta, composta da Lucio Dalla insieme con Pier Davide Carone, esibiti all'ultimo Festival di Sanremo con Nani. Nani, Nani, Nani, ti ho scovato dentro ad un sentiero, ma non sono stato mai sincero. Nani, Nani, Nani, prima e dopo tanti come me a cercare il mondo che non c'è. Nani, Nani, questo bosco ormai è il tuo stesso odore, di una bocca senza il suo sapore. Nani, Nani, Nani, 20 euro di verginità, quegli al padrone, la mia che resta qua. Dimmi perché tu ami sempre gli altri ed io amo solo te. Dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando ti ho detto vieni via con me. Nani, Nani, Nani, piove puoi riparare, c'è un camionista da accontentare. Nani, Nani, Nani, anche lui è solo come noi, siamo dentro un mondo senza eroi. Dimmi perché tu ami sempre gli altri e io amo solo te. Dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando t'ho detto vieni. E con questa bellissima canzone romantica di Sanremo 2012 noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana per quanto riguarda Fuori di Noi, ogni sabato alle ore 14, domenica alle 12.30. Salutiamo la nostra compagna di viaggio che è ammalata, Anna Zampieri, la risentiremo la prossima settimana. Un saluto alla regia di Edi Daici. Se volete mandarci un'email, fuoridinoi@libero.it, o un sms al 320 614 6964. E allora ciao a tutti e buona settimana! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.